igatamete igoro utanyoni. Ona boriere aruse turaga gesego deitaga munyo yoraga nuke ahingolero. Wendia mogonda na mayo igoro kamete igoro tanyoni. Ona boriere aruse turaga gesego, miraga monyo, yuraga mosye ahingoro.